9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio settimana, buon lunedì 7 di marzo, oggi Santa Perpetua e Felicita. Un po' come dire la perpetuaggine dei problemi italiani e l'ambizione di risolverli con felicità. Dunque, noi dedichiamo oggi la puntata a una specie di ideale prosieguo del tema che abbiamo affrontato venerdì scorso e che poi non abbiamo potuto affrontare nella sua interezza. Il tema è quello delle semplificazioni nei confronti degli adempimenti delle norme amministrative, burocratiche. È un tema importantissimo naturalmente per la vita delle imprese, per i professionisti, i lavoratori autonomi, per le imprese di ogni classe dimensionale italiana. Venerdì ne abbiamo visto alcuni aspetti con molti di voi che hanno telefonato, vi invito ancora a telefonare, ma poi per problemi nostri è caduta la linea e non abbiamo potuto far parlare uno dei protagonisti fin dall'inizio in questo governo dell'impegno serio per snellire, semplificare gli adempimenti, le regole. E oltretutto la questione era che proprio nell'ultimo Consiglio dei Ministri, il giorno prima, un nuovo pacchetto di misure, di cui abbiamo finito per non parlare per nulla, era stato approvato. E allora riprendiamo esattamente da dove per colpa nostra venerdì non abbiamo potuto completare. Abbiamo con noi in questo inizio di trasmissione, e molto ringrazio, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta. Buongiorno signor ministro. Buongiorno Giannino. Eccoci qua. Allora, uno dei temi più importanti, cominciamo proprio dalle misure varate dal Consiglio dei Ministri di giovedì, è stato quello di affrontare una delle questioni che da sempre è al centro della lamentela da una parte e dei tentativi di dare risposte, cioè adempimenti che siano proporzionati alle diverse classi dimensionali per l'impresa. Non è che la piccola deve mettere in atto gli stessi adempimenti dell'impresa grande e grandissimo. Quali sono i caratteri salienti di questo nuovo pacchetto varato la scorsa settimana? Tanto mi faccia dire una cosa filosofica, da sempre gli italiani si lagnano della loro burocrazia, italiani come famiglie, italiani come imprese, la burocrazia troppo pesante, burocrazia opaca, burocrazia che non distingue i grandi dai medi, dai piccoli, eccetera, eccetera, e hanno ragione, hanno perfettamente ragione. Quando però si fa qualcosa per combattere questa burocrazia, sembra che queste operazioni di semplificazione, razionalizzazione e così via siano, come dire, ininfluenti, cioè non sono queste le cose che contano, e si ricomincia da capo, e dopodiché si riprotesta contro la burocrazia, eccetera, eccetera. Allora, viva la sua trasmissione che fa il punto su questi temi di semplificazione, perché vedete, la semplificazione è una faccenda estremamente complicata, perché tocca diritti fondamentali, tutele fondamentali. Immediatamente quando qualcuno cerca di mettere le mani sulla semplificazione, ci sono i puristi che dicono: addio, aiuto, adesso tutti potranno fare tutto, gli scempi sull'ambiente, gli antincendi, eccetera, eccetera, e immediatamente si chiude la finestra di possibilità del cambiamento. Allora, la dimostrazione invece è che si può tranquillamente semplificare, cancellare la cattiva burocrazia, mantenendo, anzi migliorando, le tutele, e quindi conta molto l'opinione pubblica. Allora, andiamo al merito. Abbiamo approvato, sulla base di una richiesta europea, quello che in Europa viene chiamato la Small Business Act, vale a dire teniamo conto dell'attività delle piccole e medie imprese e facciamo in modo che gli adempimenti burocratici che riguardino le piccole e medie imprese siano proporzionati alla loro dimensione. Acqua calda, buon senso, certamente, che però in Italia mancava, perché in Italia puoi essere un parrucchiere o puoi essere la Fiat e gli adempimenti circa le acque reflue sono gli stessi. Il parrucchiere ovviamente di acque reflue ha le acque del lavaggio dei capelli, e poco più, la Fiat ha molto di più, però gli adempimenti erano gli stessi. Allora, vogliamo distinguere le acque reflue di un parrucchiere piuttosto che di un artigiano, piuttosto che di una piccola impresa agricola, eccetera, eccetera, da quelli di una media o di una grande impresa? Sì, benissimo, lo stiamo facendo. Cosa complicatissima, perché ci sono poi mille vincoli, mille strilli, mille aiuti, l'ambiente e così via. Ci siamo riusciti, abbiamo approvato due regolamenti e pensate, ci sono risparmi per 1,5 miliardi di euro, 3.000 miliardi delle vecchie lire, di adempimenti da parte dei tanti parrucchieri, delle tante piccole aziende, dei tanti artigiani che non dovranno più riempire scartoffie su scartoffie, perdere tempo, dare da lavorare, e questo mi dispiace, i loro consulenti, ma mi piace per le piccole imprese, e i loro consulenti faranno altro, perché sia in campo ambientale, acque reflue soprattutto, e sulla prevenzione degli incendi, le piccole imprese saranno trattate con un occhio semplificato e di riguardo. Il tutto, ripeto, non consentendo alle piccole imprese di inquinare o di produrre incendi, tutt'altro, anzi, questo migliora l'efficienza nella salvaguardia di questi beni fondamentali che sono l'ambiente e che sono la prevenzione degli incendi. Andremo avanti perché con le prossime provvedimenti tratteremo sulla privacy, anche questo un bene straordinario, un bene pubblico, la privacy e così via. Se però poi una piccola impresa, prima di contattare un cliente o pagare delle forniture, deve fare 1000 adempimenti in ragione della privacy, la privacy diventa un onere insopportabile. Sicurezza sul lavoro, lo stesso, la sicurezza sul lavoro è fondamentale. Guai a abbassare la guardia, perché poi alla fine come dire, ne va della vita dei nostri lavoratori, eccetera eccetera. Anche qui però il tutto deve essere proporzionato rispetto al rischio, proporzionato rispetto alla dimensione di impresa. E gli appalti, anche su questo ci sono appalti e appalti, appalti piccolissimi, appalti medi, appalti grandissimi. Inutile avere le stesse procedure per gli uni, per gli altri e per gli altri ancora, perché così facendo si producono inefficienze e alibi. Appalti piccoli, procedure piccole, mettiamola così, come quella pubblicità che tutti conosciamo, appalti grandi, procedure più penetranti e più invasive. Mi sembra di aver scoperto assieme all'Europa l'acqua calda, però il terreno delle riforme è lastricato di acqua calda. È astricato di acqua calda, sì, perché poi il problema è che spesso sono gli operatori stessi che magari continuano poi nella lamentazione giustificata, perché noi dobbiamo per forza dirlo, e però il fatto per cui per diversi livelli di soglia di sicurezza le misure, per esempio, di sicurezza antincendio diventano diversificate, per cui per coloro a basso rischio non ci vuole più il parere di conformità, ma si utilizza la SCIA, cioè la segnalazione certificata, per gli altri invece con controlli a campioni più pesanti, poi anche dopo nei controlli le procedure sono 60 giorni e così via, sarà buon senso, ma intanto l'essenziale è applicarlo, appunto. Senta, Ministro, approfittiamo di averla con noi per fare una riflessione anche generale sull'avanzamento di un altro dei suoi terreni di impegno, cioè quelli per l'efficienza della pubblica amministrazione, perché in realtà nel procedere del suo impegno in questi due anni l'opposizione, per esempio penso a gli economisti che scrivono sulla voce.info, ecco, regolarmente invece di segnalare nel tempo i passi avanti fatti dai diversi capitoli su cui si è impostata la sua battaglia per l'efficienza della pubblica amministrazione, il pubblico impiego, i premi al merito e così via, tendono ad avere un criterio per il quale nel tempo dicono: ah, il ministro degli annunci. Allora, possiamo fare, glielo chiediamo proprio, può fare un punto complessivo su come siamo sul miglioramento della performance, dall'assenteismo eccetera eccetera, per dare anche una risposta a chi dice: ma sono annunci, poi nei numeri non ci crediamo, che è un altro dei luoghi comuni del dibattito pubblico italiano. Mai credere a un numero, perché se lo dà una parte bisogna dire che quel numero non esiste. Allora, come il terreno della semplificazione e l'astricato di acqua calda il buon senso deve invece prevalere, così anche il terreno delle riforme per quanto riguarda la pubblica amministrazione è lastricato di luoghi comuni che nascondono tanto conservatorismo. Devo dire, io ho fatto una legge, una riforma, la 150, il decreto legislativo 150, che è una legge di 80 articoli dentro cui c'è la trasparenza, il merito, la valutazione, c'è l'azione collettiva, c'è l'agenzia per la valutazione, ci sono ovviamente decine di oggetti straordinari che mai erano stati introdotti nella legislazione italiana, e dopodiché gli osservatori più o meno disinformati o più o meno interessati giudicano in maniera superficiale, con pregiudizi di carattere politico. Però di questo mi curo relativamente, e invece dimostro i fatti. Allora, i fatti. Dopo 30 mesi dall'introduzione delle prime norme sull'assenteismo, la conferma ormai da tutti accettata, penso anche dai giovani o meno giovani economisti della voce.info è che siamo a una riduzione di oltre il 35% dei tassi di assenteismo nel settore pubblico. Una cifra di questo genere non ha l'eguale al mondo. In Inghilterra hanno obiettivi di riduzione dell'assenteismo del 2-3%, in altre parti non si sa assolutamente nulla, in altre parti ancora si sta copiando quello che è stato fatto in Italia. Noi abbiamo ridotto l'assenteismo 35%, qualcuno può dire, bella forza, eravate fuori dalla grazia di Dio, vero. Un altro gruppo di cinici potrebbe dire sì, ma li porti a lavorare, però non è detto che poi una volta messi nel posto di lavoro lavorino, vero anche questo, però meglio portarli a lavorare e che magari qualche speranza di farli lavorare c'è rispetto a non portarli a lavorare e così via. Tutti parlano, si riempiono la bocca, all'inizio dicevano che i dati non erano veri, adesso sta uscendo anche un libro, non mio, di carattere scientifico, sui dati, sulle valutazioni, sulle statistiche, sulle correlazioni, eccetera, eccetera. Nessuno obietta più sui numeri, il che voleva dire che avevamo ragione. Ecco, questa battaglia, potremmo dire, è stata avviata e al momento vinta, perché mai abbassare la guardia. Poi, la riforma vuol dire trasparenza. Ebbene, sulla trasparenza la pubblica amministrazione non è più come quella di due anni e mezzo fa. Se lei batte il suo medico curante sul computer, il nome del suo medico curante sul computer, ha immediatamente il suo curriculum, stipendio, la sua funzione, eccetera, eccetera. Tutto questo non c'era. In ogni amministrazione, altro punto della riforma, in ogni amministrazione è stato istituito un organismo di valutazione della performance. Cosa vuol dire? Questa amministrazione che produce esami radiografici piuttosto che tomografie assiali computerizzate, sto parlando di un'ASL, come raggiunge questi obiettivi? In quali tempi, in quali modi, con quali performance? Bene, in tutta la pubblica amministrazione, centrale e periferica, questi organismi si stanno diffondendo e stanno operando. I risultati dobbiamo aspettarli ovviamente, però una cosa del genere prima non c'era. Altro punto, sta funzionando l'azione collettiva. Cos'è l'azione collettiva? Vale a dire, è quella cosa che consente ai cittadini consumatori, utenti, ma la parola non mi piace, di avviare procedimenti contro la pubblica amministrazione che non rispetta gli standard dell'offerta dei servizi. E faccio sempre un esempio sulla sanità. Se un'amministrazione sanitaria nella propria carta dei servizi dice che ti fa un attacco in 30 giorni, poi tu vai lì e ti dicono 3 mesi o 30 mesi, tu prendi questo foglietto con la carta dei servizi, con i 30 mesi, vai da un tribunale amministrativo e questo fa immediatamente un'ingiunzione secondo la quale se non ti danno immediatamente a te e a tutti quelli come te che chiedono quella cosa che è in conformità o in difformità della carta dei servizi, salta il dirigente di quella ASL. Ci sono già moltissime azioni di questo tipo che, guarda caso, hanno cominciato a funzionare senza arrivare al giudizio definitivo, cioè è bastata l'ingiunzione di adeguamento, il che è già un grande successo. Che altro ancora? Chiederle, signor Ministro, un punto su questo, perché molti ascoltatori chiedono, ma davvero si arriverà, in che modo, visto la storica posizione del sindacato, per esempio, in materia, al fatto che poi il responsabile di procedimento, quello che dovrebbe appunto essere tenuto al rispetto dei termini entro i quali la pubblica amministrazione deve per competenza dare risposte, arriva fino a saltare, non è che debba saltare in prima istanza, però in caso di conclamata responsabilità di inerzia arriva fino a saltare, perché molti dicono, noi quando ci arrivano la cartella a seguito dell'accertamento e senza contenzioso e a 30 giorni dalla cartella entrano nei nostri conti e l'Agenzia delle Entrate Equitalia si prende direttamente il nostro patrimonio, il termine non è perentorio, è perentorissimo, però la questione è asimmetrica, perché lo Stato, quando si tratta invece di darci informazioni, adempimenti e così via, col cavolo che lo rispetta in maniera... L'azione collettiva, altrimenti detta class action nella pubblica amministrazione, l'ho introdotta io nella mia riforma. All'inizio era stata criticata perché si è detto non conta nulla perché non c'è risarcimento monetario come per la class action nel settore privato. non capendo questi detrattori, tutte le associazioni di consumatori, tanto per farci un esempio, non capendo che era molto più pregnante l'azione collettiva nella pubblica amministrazione, perché la sanzione era non solo e non tanto il ripristino immediato del servizio, perché al cittadino cliente della pubblica amministrazione non interessa tanto un risarcimento quanto di avere la TAC entro 15 giorni. Non voglio mica avere 3 miliardi di euro di indennizzo per non aver avuto la TAC, per carità, ma io voglio avere la TAC, io e tutti quelli nella mia stessa situazione, entro 15 giorni. Noi abbiamo adesso una casistica del primo anno di funzionamento dell'azione collettiva straordinaria, che ci dimostra in decine e decine di casi come l'avvio dell'azione collettiva abbia ottenuto risultati strabilianti solo con la ingiunzione di adeguamento, cioè senza arrivare a giudizio. Per cui alla sua domanda posso rispondere positivamente, nel senso che non abbiamo ancora avuto giudizi che quindi che il dirigente del procedimento è saltato, perché non ci sono ancora stati, perché non c'è stata la necessità, perché laddove il cittadino ha fatto la sua rimostranza, è partita dal tribunale amministrativo l'ingiunzione di adeguamento, pensi, immediatamente l'amministrazione si è adeguata. Quanto poco basta a volte per produrre esiti e risultati positivi, dando voce e dando qualche strumento anche cogente ai cittadini, cioè la FIFA della pubblica amministrazione, mettiamola così, rispetto a un'azione collettiva è stata tale per cui non è stato neanche necessario arrivare al giudizio, che l'amministrazione si è adeguata immediatamente. Nel mio sito sono già pubblicate alcune decine, se non un centinaio, di azioni già avviate con questi risultati. Io sono straordinariamente felice da questo punto di vista, perché non ho innescato un contenzioso lungo un anno nella mia casistica, però insomma comunque lungo, ma le vicende si sono risolte nell'arco di qualche settimana e devo dire questo è già un risultato. Pensi a un'estensione generalizzata di tutto questo in tutta la pubblica amministrazione centrale e periferica, tutto questo sarebbe una vera rivoluzione. E questo è un altro pezzo della mia riforma che i signori ricercatori della voce.info non hanno ancora considerato, perché evidentemente in altre faccende affaccendati, né tantomeno quelli che dall'estero ogni tanto facevano qualche valutazione da lontano, ma forse la lontananza li portava a vedere le cose con troppa ideologia e troppo poco pragmatismo. Senta, un'ultima domanda, perché ne approfittiamo, naturalmente non è diciamo sua diretta competenza, ma insomma lei non si è mai tirato indietro quando si tratta di formulare opinioni e anche proposte per la politica economica del governo rispetto alla crescita. Qui la questione tra i tassi che vengono annunciati in crescita da parte della BCE per l'inflazione, lo shock petrolifero nuovo per il Nord Africa e la Libia, insomma le condizioni sono di nuovo con un nuovo mostro che esce dal videogioco, come direbbe Tremonti. Entro aprile, cioè entro poche settimane, il governo deve presentare il piano nazionale per le riforme, che costituisce uno dei pilastri insieme ai conti pubblici della sessione di bilancio europea, questa nuova regola del patto di stabilità che ci siamo dati nella crisi. Che cosa si può legittimamente, senza rubare il compito ai suoi colleghi, però aspettarsi, perché dall'1,3 di crescita del 2010, comunque di qualche frazione superiore alle attese, si possa in qualche maniera riuscire ad avvicinarsi al 2%, invece che con un quadro che tra costo del denaro e inflazione ci faccia di nuovo tornare indietro, secondo lei? Che cosa può aspettarsi il mondo delle imprese dai provvedimenti? Allora, le risponderò in maniera sintetica e castica. Uno, calma e gesso, cioè la ripresa in atto è vera, forte, estesa, eccetera, che a mio modo di vedere non potrà essere messa in discussione dalle crisi geopolitiche del Mediterraneo, chiamiamole così, in maniera molto sintetica. Questo è il primo punto. Secondo punto, io ero stato tra i pochi che aveva previsto una crescita per il 2010 più vicina all'1,5, queste erano le mie parole, che all'1. Altri pronosticavano lo 0,7, lo 0,8, li chiamo anche per nome, Confindustria. Il risultato ha dato ragione al sottoscritto, 1,3. Io credo che per l'anno in corso noi staremo più vicini al 2% che all'1,5%. E quindi e ricordo agli ascoltatori, come lei il dottor Giannino sa benissimo che il 2% è il valore di equilibrio, chiamiamolo così, sì, di una crescita mediamente sufficiente, non esaltante, ma è il tasso di crescita che ci consente di aumentare i posti di lavoro, di far rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione, che consente di distribuire efficientemente i guadagni di produttività. Insomma, il 2% è un numeretto magico in termini di crescita che consente di guardare al futuro con un paio di occhiali rosa e non più neri. Va bene, e allora, siccome non le manca come sempre poi coraggio andare alle previsioni, faremo stato di questa qua, nella speranza che davvero come la prima si avveri, perché è meglio per tutti. Il 2% tra l'altro è una percentuale di crescita che consente anche stabilizzazione del debito pubblico, perché tra crescita nominale rispetto all'onere del debito pubblico non è necessario né pensare a patrimoniali e a deliri di quelle altre cose. Mi faccia dire un'altra piccola cosa. Le regole europee rispetto al rientro dal debito, deficit, eccetera, eccetera, devono ancora essere definite e saranno sufficientemente elastiche e flessibili da accompagnare la crescita e non certamente da distruggere, da punirla, la crescita potenziale in atto. Infatti, questo sì, tra aprile e giugno vedremo la nuova sessione di criteri, e la posizione tedesca, che era per la rigidità, in effetti ha perso adepti. Vedremo anche tutti i provvedimenti, anche prima della cosiddetta frustata, su cui stiamo lavorando con grande determinazione presso il tavolo del ministro Tremonti, e che potranno dare delle risposte, molte proprio nel senso delle riforme a costo zero che l'economia italiana ha bisogno. Va bene, noi ringraziamo il ministro Brunetta, appuntamento per il prossimo tagliando, per così dire, delle sue riforme. Pubblicità. Eccoci tornati in studio e in questa seconda parte della trasmissione testimonianze invece di operatori e voce a voi tutti che naturalmente siete l'altra parte della medaglia, quella che dice sì, qui non si tratta di negare criticamente le ragioni dei passi avanti, però si tratta di ricordarci che i passi da compiere rispetto alla realtà del rapporto con la pubblica amministrazione, a una normatività così pervasiva, sono ancora tantissimi e infiniti, perché la realtà, sia pur fatto stato delle buone intenzioni di chi si è messo a fare manutenzione e innovazione anche profonda alle regole tra pubblica amministrazione, impresa, cittadino, la realtà resta segnata da fortissime situazioni di intollerabilità. Allora, abbiamo con noi innanzitutto Manfredi Nappi, che è un avvocato e rappresentante dell'ALPI. Che cos'è l'ALPI? L'associazione lotta piccole illegalità. Ci ha scritto e mi sembra utile dare ai nostri ascoltatori il senso di quello che fanno gli avvocati colleghi di Manfredi Nappi. Poi abbiamo Giuseppe Bortolussi, segretario CGIA di Mestre, che conoscete benissimo e che in questo caso, diciamo, nomino per così dire campione di tutti coloro che incalzano doverosamente la politica, quindi anche il ministro, ricordando tutti noi quanto costa e quanto è pervasivo ancora l'inefficienza. Buongiorno a Bortolussi. Buongiorno a voi. E abbiamo poi Mauro Meneghini, un altro ascoltatore, che ci fornirà tra poco una testimonianza che ci ha scritto dopo la trasmissione di venerdì. Però cominciamo con l'avvocato Nappi. Buongiorno avvocato. Allora, cosa fate voi su questo terreno, voi avvocati rappresentanti dell'ALPI? Buongiorno ai suoi ospiti e a tutti quelli che ci ascoltano. Dunque, noi ci siamo attivati partendo da un dato di fatto, che è quello che le cose non funzionano, da un dato di fatto che c'è una soddisfazione da parte dei cittadini costernati e molte volte rassegnati, perché l'organizzazione della pubblica amministrazione ben si presta al gioco dello scaricabarile tra strutture, sovrastrutture, uffici e servizi autonomi. Dunque noi riceviamo le segnalazioni dei singoli cittadini che diversamente dovrebbero rivolgersi ad un avvocato e non lo fanno. Riceviamo queste segnalazioni, proponiamo istanze agli uffici competenti, i quali hanno l'obbligo, come lei ha ben ricordato, di pronunciarsi, di provvedere entro un termine che è la legge stessa a fissarlo. Quindi noi, con gli strumenti che l'ordinamento giuridico ci offre, adoperiamo. Superati questi 30 giorni, in caso di silenzio inadempimento, in questo caso, ricorriamo alla via giudiziale e quindi nomina di commissario d'arte e quant'altro. Parallelamente, invece, quello che non è stato detto finora, noi diffidiamo personalmente il responsabile di ogni singolo procedimento a provvedere, ad adempiere, e lo diffidiamo anche alla luce del codice penale, dell'articolo 328 secondo comma, ovvero di omissione, perché è anche il codice penale che disciplina il procedimento amministrativo. Oh, questa via, diciamo così, la via di procedere sia con gli strumenti del diritto amministrativo che direttamente identificando il responsabile e con diffida iniziare a metterlo nel mirino penalmente, esatto, consente, diciamo, in maniera statisticamente apprezzabile una certa velocizzazione e il risultato in termini di efficienza del processo, che è quello che poi più conta, insomma. Statisticamente apprezzabile sì, perché il funzionario pubblico di fronte alla possibilità di essere coinvolto in un procedimento penale o semplicemente preoccupato di dover chiamare un avvocato, adempie, si dà da fare. Il problema grosso è che nella pubblica amministrazione ci sono tante, tantissime persone che hanno voglia di lavorare, e questa voglia di lavorare viene mortificata da, invece, dai tantissimi, tanti, che questa voglia non ce l'hanno, e quindi viene tarpata questa cosa. Io, come Alpi, mi sono preoccupato di dare voce a tutte quante quelle persone che normalmente si lamentano, imprecano di fronte al disservizio e che fino ad oggi nulla hanno fatto perché non sapevano cosa fare. E ci siamo dati da fare in questo senso. La seconda fase della nostra associazione, siccome io credo che non sia utile soltanto proporre problemi, ma bisogna proporre anche soluzioni, abbiamo costituito un centro studi in cui i professionisti di ogni ramo, gli imprenditori, gli operatori di ogni settore si mettono d'accordo, danno vita a un laboratorio di idee, presentano progetti di carattere urbanistico, edilizio, per il miglioramento di determinati servizi, e questi progetti presentati alla pubblica amministrazione poi necessitano di un sì, di un no e magari di un no perché da parte della pubblica amministrazione. Io credo che sia questo la leva su cui spingere per riazionare un po' il meccanismo, perché siamo un po' fermi come sistema Italia, insomma. Va bene, va bene. Allora sentiamo invece la testimonianza, io ringrazio l'avvocato Nappi, sentiamo la testimonianza di Mauro Meneghini invece, che ha una sorellina, chiamiamola così, perché così sembra un diminutivo che rispetta poco l'impegno, però che fa riflettere sul termine e il numero di anni e l'onerosità di quando qualcuno mette mano davvero al capitolo riequilibrio dei diritti tra pubblica amministrazione da una parte, imprese e cittadini dall'altra. Di che si tratta brevemente, Meneghini? Lei che cosa ha tentato di fare? Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione e grazie di esserci, Oscar, perché se non ci fosse lei a dar voce... No, non lo dica, perché vedo che crescono gli ascoltatori. Se devo vedere le reazioni, la prima metà voleva che io insultassi il ministro. Io preferisco oramai, in questo paese in cui è inutile confrontarsi, che ciascuno dica la sua. Quindi oggi gli ascoltatori dicono che io sono uno scendiletto servo di Berlusconi. Io non rispondo più a queste cose, probabilmente hanno ragione, li accontenteremo presto perché me ne andrò. Io posso dire che, siccome francamente credo che non starò zitto, me ne andrò tra poco, così saranno tutti contenti e non avranno scendiletti. Dica, Meneghini. Benissimo. E non perdiamo tempo con me. Allora, la mia storia è semplicissima. Nel 79 avevo chiesto un rimborso IVA per delle autovetture, per dei mezzi acquistati come azienda. L'ufficio IVA, l'ufficio dei tributi di Trento, mi aveva respinto questa richiesta, per cui adesso non sto lì a parlarle di tutte le mie vicissitudini personali, però ho portato, diciamo, questa richiesta, questa istanza, e venne anche rifiutata questo rimborso, o la mia richiesta venne respinta dalla... a Roma, adesso non mi viene niente, comunque... ho portato questa richiesta fino alla Corte di Bruxelles, alla Corte di Giustizia dell'AIA, che venne poi riconosciuta a settembre del 2006, per cui dal 79 al 2006 sono passati 25-26 anni, no? Per il riconoscimento della detraibilità dell'IVA sulle autovetture in ambito appunto aziendale. Questa è la mia storia. Quanti soldini le è costato questa battaglia? Circa 48 milioni di vecchie lire di avvocati. Chiaramente l'importo non venne mai, cioè nessuno mi ha riconosciuto queste spese, chiaramente, perché sono spese fatte negli anni e dilazionate nel tempo e poi che non prevedono un rimborso. In aggiunta c'è... diciamo che nel momento in cui potevo avere questo rimborso, che era intorno ai 20-25 mila euro di tassa pagata. Perché alle cose bisogna dare sempre nome e cognome, il Amato, no, il famoso famigerato Topolino Amato, no, all'uscita della sentenza di settembre mise un termine perentorio del 30 di dicembre del 2006 in cui bisognava io come contribuente di nuovo andare a fare richiesta per il rimborso di questa dell'IVA. Vorrei ricordare che allora Amato era ministro degli interni e il sottosegretario all'economia era Vincenzo Visco. No? E poi il 29 di dicembre del 2006 ebbi un grossissimo lutto in famiglia, per cui non riuscii a presentare la domanda, per cui va bene, io sono contento di aver fatto questa battaglia, perché altre battaglie sto portando avanti di libertà, ma ironia della sorte non riuscì a ottenere neanche il rimborso, perché secondo il decreto che era stato emanato dal governo e c'erano dei termini molto precisi per presentare queste domande, non potendo presentare le domande per motivi miei personali non sono più neanche andato a recuperare i soldi. Ecco, allora Mauro Meneghini, le abbiamo fatto parlare perché Mauro Meneghini è naturalmente appartiene a una minoranza assoluta, io lo devo dire, devo fare una piena trasparenza sul fatto che appartiene a una minoranza di libertari che si impegnano con assoluta coerenza, un po' come l'imprenditore Fidelanto di cui tante volte vi ho parlato, quello che ha fatto la battaglia perché si rifiutava di fare il sostituto d'imposta e diceva ai miei dipendenti io gli metto in lordo il totale di quello che gli spetta nella busta paga, rendendoli pienamente edotti, informandoli di tutte le procedure che devono compiere perché poi debbano farsi loro il conto dell'imposta dovuta e pagarlo loro allo Stato, però mi rifiuto di fare il sostituto d'imposta, via luminosa secondo me di come bisognerebbe comportarsi in maniera che tutti i lavoratori e anche i dipendenti capissero quanto lo Stato gli ruba, e quindi appartiene a questa minoranza di libertari che si impegnano. Però state attenti, perché questa maniera di fare i cittadini con la schiena dritta, che per esempio hanno pieno diritto a chiedere che la legge 241 del 90, quella sui 30 giorni entro i quali bisogna avere la risposta, sia pienamente ottemperata, come lo Stato fa quando ci prende i soldi dalle tasche. Io sono diventato un evasore fiscale, tra l'altro, oltre che indagato l'anno scorso, perché per una cartella che è diventata immediato titolo esecutivo sono entrati e mi hanno preso direttamente, e figuro come quei soldi che sono un riequilibrio tra dare e avere fiscale figurano tra i denari che nel 2010 lo Stato si è preso da evasori. Mi becco pure la patente di evasore, non avendo potuto contare su un minimo di contraddittorio nei confronti dell'amministrazione. È possibile vivere in un paese in cui diventi bandito e diventi evasore perché per loro il termine è perentorio, mentre tutte le volte che il termine ce l'abbiamo noi per chiedere qualche cosa allo Stato la risposta è privacy, non ti diciamo un piffero? Su questa domanda, perdonate voi che dite che sono uno scendiletto e mi fate abbastanza arrabbiare, anche se naturalmente avete sempre ragione in quanto ascoltatori, adesso vi prendete le informazioni sulla circolazione stradale e poi tutta la conclusione con Bortolussi. Allora Bortolussi, come fare per evitare di sembrare da una parte predicatori nel deserto e dall'altra, come dice il ministro Brunetta, di sembrare coloro che magari per ragioni politiche non apprezzano i passi avanti significativi che lui sostiene essere impegnato concretamente a fare? Come si fa a evitare l'eterno luogo comune che svuota di contenuti il dibattito pubblico italiano su questo tema, secondo lei? Secondo me non censurandosi, ma dicendo quello che si pensa dopo essersi ben documentati, perché la questione non è dire quello che si pensa, ma pensare a quello che si dice. Per esempio io comincio dicendole che questo governo, che non è il mio governo, che non mi piace, ha fatto una cosa che aveva promesso, l'impresa in un giorno, da aprile dell'anno scorso. Tu con una comunicazione, dopo adesso lasciamo perdere la casistica per i pubblici esercizi eccetera, tu apri l'impresa, in un giorno tu hai l'iscrizione alla Camera di Commercio, la partita IVA, sei iscritto all'INPS, all'INAI e puoi operare nella stragrande maggioranza dei casi in una mattinata. Beh, è un bel passo avanti. Cosa rimane da fare? Vede, io ho sentito diligentemente, ho ascoltato l'avvocato. L'avvocato però deve capire una cosa, che se io faccio pressione su un impiegato pubblico, quello per paura prende in mano la mia pratica, ma ne lascia là altre 10. Ho ottenuto un risultato, però ho fatto altro che spostare da una pratica all'altra l'attenzione. Vede, una delle questioni che direi al mio amico Brunetta, che abbiamo fatto anche un pezzo di strada assieme scolasticamente, è questo, che ci sono due cose per cambiare la pubblica amministrazione, senza le quali non si riuscirà a far niente, nonostante la sua capacità e la sua buona volontà, che io riconosco, pur non essendo lui il ministro, mi spiego che mi piacerebbe fosse lì. Allora, vede, c'è un discorso, la semplificazione legislativa. Senza semplificazione legislativa non si va da nessuna parte, e senza un orario di lavoro pari a quello dei privati. Vede, però sulla semplificazione legislativa le devo dire una cosa. Io ho fatto anche l'assessore per due legislature, per due consigliature, e avevo dei funzionari, no, bravi, bravissimi, tanto che a un paio di questi ho offerto di venire a lavorare nella mia azienda privata, che è la mia associazione. E loro non hanno voluto, per questo senso di dovere, di legame alla pubblica amministrazione, ma erano bravissimi, però non riuscivano a ottenere certi risultati, perché il vero problema è che se tu devi fare 3 metri e ne devi fare 350 invece per arrivare, e questa è la complicazione legislativa, non ci arriverai mai. Il vero problema è la semplificazione amministrativa. Poi le devo dire un'altra cosa, è una questione culturale. Se voi leggete una norma interessante europea che segna un cammino, una direzione, lo Small Business Act parla di cultura favorevole alla piccola impresa. Invece in questa Italia un po' cattolica, un po' cattocomunista, cosa c'è? Chi fa impresa è un anomalo, è uno che osa sfidare il cielo, è un Icaro che si brucerà le ali e cadrà. Questo è, non è uno che crea ricchezza. Da dove viene l'occupazione? Non ci riflette quasi mai nessuno. Tutti ce l'hanno col piccolo imprenditore che è definito evasore, e invece di stare attenti a quello che lui fa, se guardo ai dati, quando io scopro per esempio che in Germania i tempi per esempio della pubblica amministrazione sono calati, che in Germania ci vogliono, il tempo che ci mette per fare i pagamenti per esempio un'impresa è 215 giorni, in Italia 285, sono dati della Banca Mondiale, che l'importo delle tasse, cioè le tasse sui profitti, è il 68% in Italia e 48% in Germania. Ma dove volete che andiamo? Se io ci aggiungo sopra, no, sto discorso, costo dell'energia più 40%, mi perdoni Giannino se lo ripeto, ma dell'energia più 40, dove vuole che andiamo? Se paghiamo 20 punti di tasse più della Germania, che è il nostro più diretto competitor, il nostro punto di riferimento vero, perché i paesi anglosassoni hanno sistemi diversi dai nostri, ma nel capitalismo renano continentale noi come riferimento abbiamo Germania e Francia. Se io vedo il costo dell'energia più 40%, costo dei trasporti più 15%, deficit infrastrutturale, bravo a produrre, ho comprato macchinari nuovi, anzi li ho inventati, ho innovato, però sono fermo fuori dei cancelli perché non hanno fatto la strada. Il credito, scusate, un sistema che premia solo alcuni, cioè il 10% riceve l'85% degli affidamenti, sì, che cos'è che resta all'altro 90%? Il 15%. Quindi difficile per la nostra terra, l'Italia in generale, fatta di piccole imprese, lavorare bene se non hai il credito. I tempi di pagamento, una vergogna italiana. Adesso l'Europa ha dato una direttiva che bisogna recepire entro 2 anni. Questa sarebbe la vera grande riforma che io suggerirei a Berlusconi. Io non ho pregiudizi né culturali né dico solo, fate vedere il governo di centrodestra che siete all'avanguardia, recepite questa norma sui tempi di pagamento, i 30 e 60 giorni obbligatori, senza se, senza ma, senza eccezioni. Questo sarebbe un grande discorso per l'impresa. Poi la burocrazia, i tempi li abbiamo già detti, i tempi della giustizia. Sapete, quando la gente non viene dall'estero a investire qua, sapete che cosa dice? Ci sono stati degli studi, delle ricerche, dice che non viene in Italia perché i tempi della giustizia sono troppo lunghi, dai 7 agli 11 anni per sapere se è giusto che uno non ti paghi, per sapere se è giusto che quello ti paghi. Ma come si fa a fare impresa quasi quasi questa costituisce la grande gloria del nostro piccolo imprenditore, perché deve essere bravo. Se lui riesce a fare queste cose nonostante questa palude, questi ostacoli, quello che gli altri proprio non riescono a fare, però c'è anche una contro, diciamo, indicazione, c'è il rovescio della medaglia. Forse questo impedisce la vera concorrenza, cioè che vengano anche dall'estero altri a combattere, proprio perché loro non ce la fanno in questa palude, in questa situazione disastrata, in cui, come giustamente diceva lei, lo Stato ha sempre ragione, ma non stiamo più a livello di Stato etico, di Stato hegeliano, in cui bisogna sacrificare tutto alla grandezza dello Stato, perché lo Stato ti difende, lo Stato conquista nuovi mercati. Noi siamo una democrazia liberale, ma bisogna renderla più liberale, in maniera che lo Stato abbia gli stessissimi diritti del cittadino, fino a che lo Stato non verrà condannato, dico ogni giorno, per i suoi abusi, non saremo una vera democrazia. Sono completamente d'accordo, e per questo non ho interrotto con Bortolussi. Il mio sogno è di vedere non cittadini che si dividono, come capitando mentre anche parla lei, con tanti che dicono che lei sta difendendo gli evasori. Questa cosa degli italiani, no, ma lasci perdere, perché tanto io oramai ci faccio così il callo che tra un po' alzo le tende e me ne vado. Perché il punto è che questo cadere nella trappola di chi li fa dividere, questa bava alla bocca della cecità tribale, che è il problema di un certo tipo di ascoltatori e di elettori, è quello che consente allo Stato di non essere portato alla sbarra. Quando ci daremo la cultura per cui i Bortolussi e gli altri che avete sentito prima, invece quelli che portano lo Stato alla sbarra e che dicono i numeri, saranno ciò che accomuna le tribù contrapposte, curva nord e curva sud, che non chiedono altro che l'esecuzione del conduttore immediato, perché ne vorrebbero una specie di giustiziere. Beccatevi Santoro, ve li meritate, gente che non ha rispetto dei numeri e che alla fine vi asseconda nel curva nord e curva sud. Lo Stato ingrassa e di solito li paga anche molto bene, e voi però siete molto contenti, la parte di voi che non fa altro che dire che anche Bortolussi non vi va bene, perché naturalmente ha commesso l'errore di riconoscere qualcosa si è fatto, dicendo che però bisogna portare lo Stato ogni giorno in giudizio. Mi stanno sfumando, a domani, ciao ciao.